steppa con il nostro caro amico Freddy Stork ritrovato. Bella raga, bella. E adesso seguiremo il consiglio della canzone e cercheremo di fare di questo posto un piccolo Zion. Direi che come consiglio iniziale non è male. Faremo una selezione di canzoni un po' concettuali, un po' carica, diciamo, emotiva e spirituale, quello che vogliamo. Allora, la prima canzone di cosa ci parla, caro Freddy Stork? Vabbè, come prima canzone abbiamo scelto appunto Wood Cup Fit di Bob Marley, e è uno dei miei testi preferiti dal lato perché proprio è diretta, parla di la meschinità e insomma della falsità delle persone, però lo fa anche in maniera molto armoniosa musicalmente, quindi questa cosa è sempre come se fosse una trasmissione di rivalsa, capito, trasmettere la musica una rivalsa verso questa cosa, infatti dice alla fine non curartene, capito? Loro faranno così ma tu non curartene, capito? Ok, cioè proprio di come diciamo i falsi amici, no? Che puntano magari più a nascondersi che a essere diretti. E il Bob ci ha fatto una bella canzone su questo che vi andremo a presentare e anche a spiegare. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Cioè, qui ci dice bambini di cui non sanno di chi fidarsi, quindi cioè parte proprio dicendo proprio dalle radici. Vediamo come continua. Il tuo peggior nemico potrebbe essere il tuo migliore amico. E il tuo migliore amico è il tuo peggior nemico. Alcuni mangiano e bevono con te. E stanno dietro di te e ti supportano. Qui è quando gli altri alle spalle parlano di te, capito, no? Ed è se parlano su di te, no? Solo i tuoi amici conoscono i tuoi segreti. Aspetta, non ce lo perdiamo, quello ce lo risentiamo, ragazzi. Qui c'è uno dei pezzi più belli in realtà che spiega forse questo concetto. E infatti ce lo andiamo a risentire. Solo i tuoi amici sanno i tuoi segreti. E quindi solo loro possono rivelare. Andiamoci a sentire la canzone. Let them wear it. Who the cap fit. Let them wear it. Said I throw me con. Throw me con. Me no call no foul. Me no call no foul. I say in cup, cup, cup. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Hey. Some will hate you. Pretend they love you now. Ooh. Then behind they try to eliminate you. But who just pretend they love you now. Questa no one curse. Qualcuno ti odierà. Pretendi che ti ami. No, pretendendo il tuo amore. Ah, ok, pretendendo il tuo amore. Capito. Ah, ok, no, allora la some will hate you, pretend they love you now. Quindi? Alcuni si odiano. Qualcuno ti odierà pretendendo che tu lo ami. Ah, ok, ok, no, l'avevo intuito in un altro modo. E dietro di te then try to eliminate you. Cercheranno di eliminarti. A tue spalle te, te proveranno a eliminarti. Thank God. We're past the worst. Hypocrites and barons. Yeah. Beh, insomma, a te è piaciuta sta lirica? Beh, Ude Capfit è una delle mie preferite, sì, anche perché questo concetto è molto bello. Mi piace che una canzone comunque l'abbia espresso. Sì, sono d'accordissimo. E infatti lo riprenderemo pure nella prossima canzone che ho scelto, che è Hearsay dei Gladiators, che appunto affronta molte dinamiche simili a me. Addirittura c'è una delle frasi che preferisco, che appunto bisogna trarre il senso dal non senso per avere la risposta, che secondo me è proprio la base della vita, cioè concettualmente, capito? Cioè come vivere la vita è la risposta a questa domanda praticamente. Ok, allora direi di non perdere tempo di farci dare questa risposta dai nostri Gladiators. Questo il testo è appunto, parla del sentito dire, no? Quindi di tutte quelle persone che ti parlano alle spalle più o meno, quindi siamo sempre sullo stesso concetto del testo prima, no? E però appunto è bello perché è sempre un testo che comunque dice lasciali perdere le base, e ti dice appunto cerca la tua rivalsa piuttosto che combattere, capito? Beh, grande concetto. Combatti in altro modo più che altro. Esatto, e questo devo dire che ci dà un bel intro per la prossima canzone, che infatti dice proprio, se andiamo a tradurre il titolo, io sono quello che sono. Quindi una canzone che conferma appunto la necessità anche di affermarsi, no? Di avere una propria identità che non deve essere criticata. Cioè non deve essere anzi sostenuta dalle persone che intorno, no? Quindi perché piuttosto che magari un sostegno provare invidia o provare magari a diciamo raggirare, è sempre meglio la cara e vecchia sincerità, no? E quindi questo testo a cui poi io tengo particolarmente, perché sono molto d'accordo col concetto, direi anche di farvelo partire. Cercherò di tradurvelo il più possibile senza infastidire, anche se non sarà facile. Già la prima. Ah, che poi come aspetta, come dicevamo, già la prima frase riprende un nostro caro amico, cioè magari amico. No, in realtà è il padre di tutti i draghi sulla terra. E no, sì, appunto la prima strofa proprio riprende le parole di Bruce Lee, e appunto le rimette in testo, che è tutta la parte che appunto dice che non sono qui per vivere in questo mondo e rispettare le tue ambizioni, capito, no? E appunto tutta quella parte lì che stavamo ascoltando adesso, ce la mandiamo. In this world, to live up, I'm io non sono in questo mondo per soddisfare le tue aspettative. Neither are you here to live up to mine. Yeah. Io non devo niente, nessun obbligo. No obligation. No one owe me none, so everything is fine. Io sono quello che sono. Grande Peter. Dopo un altro concetto che mi piace tanto, underestimate my ability, non sottovalutare le mie abilità, caro mio. non ti ricorda di non fare questa cosa. Di tutta una canzone su questo concetto di, hai capito? Sì, una celebrazione sana, però ecco, un autorivalza, tipo una celebrazione, infatti. Esatto, cioè non offensiva, no? Cioè senza andare contro, no? Qualcuno, ma per se stessi. Non è discorso, cioè, che ti sto venendo contro, no? Perché tu devi reagire come se io ti stessi venendo contro, determinare magari la mia personale. Questo è un errore che sarebbe bello non fosse fatto in questa società. E questa canzone continua per un bel po' con questo concetto, che però troviamo poi ripreso anche dai nostri cari amici più moderni, sia mia che di Freddy, dei ragazzi belli belli spinti. Che ne pensi? The OBF Sound System. Vabbè, ciao Rico. Che hanno ripreso anche loro delle, cioè hanno citato anche loro Bruce Lee, però in una canzone totalmente differente, molto molto più moderna, ma anche qui diciamo che il testo è bello esplicativo. Questa ce l'andiamo a sparare, ve lo spiego dopo, però questa va mandata come mina. Proprio originale era quella Empty Your Mind, Before the Shapeless, Like Water, no? Pint Water Block Up Becomes Cup, Blue Pint Nasty Pot Becomes Cup, Water Can Flow, Water Can Flow, Di Water Can Flow. Questa è la citazione originale, la posso dire. Significa, vabbè, significa appunto, no? Libera la mente, essi in forme come l'acqua, capito? Essi mutabile in forme come l'acqua, capito? Perché appunto se la metti in una tegliera diventa una tegliera, se la metti in una brocca diventa una brocca, perché quello che fa l'acqua fisicamente proprio, no? E l'acqua è appunto, l'acqua può anche distruggere, capito? Può fluire tranquillamente come può distruggere, capito? Può essere una forza impattiva assurda, capito? E quello che diceva Bruti appunto è, diceva di essere, essere come l'acqua, fruibili, ma allo stesso tempo essere in grado di poter distruggere, essere sia un, cioè che poi è comunque sempre una forza, capito? Essere una forza ma con un'intesa, con la doppia faccia della medaglia, appunto, che non è più lieve, ma è più... Beh, come sempre, top. E adesso qui in programmazione ci abbiamo un'altra bella canzone. Che adesso il Sor Freddy ci presenta, che concetto possiamo andare ad estrapolare, di cosa ci parla, cosa ci vuole insegnare questa song? Vabbè, diciamo che ci riallacciamo a quello che stavamo dicendo prima, appunto, no? Sempre nel sentito dire, il parlare, un po', diciamo, c'ha dei bei concetti questa canzone, perché mi piace quando dice "The lips of the righteous teach many, but the fools die for want of wisdom", cioè che dice appunto, capito, le labbra dei sapienti insegneranno molti, ma i stupidi moriranno di saggezza, capito? Cioè questo è un testo che secondo me, perché appunto la canzone si chiama Stiff Naked Fools, che significa stupidi ostinati, no? E all'inizio, appunto, come inizia il testo, dice "Stiff Naked Fools, you think you are cool to deny me for simplicity", che appunto è stupidi ostinati, vi pensate di essere fichi, capito, decriminandomi a me per la mia semplicità, capito? Mentre loro avanzano appunto con questo amore per la vanità, capito, no? Il volere, cioè appunto parla della società che ti vuole governare, inglobare per forza in quello che tu devi essere secondo loro, quando in realtà tu puoi essere quello che vuoi essere, capito? Quindi si riallaccia un po' a tutti i pezzi che abbiamo sentito prima, secondo me questo racchiude un po' tutto quello che abbiamo ascoltato finora, capito? E niente, è uno dei miei pezzi preferiti, infatti pure questo di Marley, oltre a With The Cup Fit. E niente, no, mi piace appunto il testo e tutto quanto, anche molti riferimenti, insomma, dei testi più old school di Marley, capito, che ha preso alcune frasi e l'ha riadattate, insomma. E però so che, insomma, pure a te piace Marley, quindi magari vorresti farci ascoltare qualcosa pure tu che tratta l'artista. Beh, sì, sai bene che quanto mi piace, quanto lo apprezzo. Eh sì, anch'io avevo preparato una canzone di Bob, che anche qui è, diciamo, contenuto uno dei concetti che, diciamo, mi piacciono di più. Oltre che però, appunto, come mi dicevi proprio tu, e dopo ti lascerò spiegare, in realtà è una... comunque è un racconto di un fatto realmente accaduto al nostro caro amico Bob. Però ecco, diciamo, c'è un concetto che a me piace molto, che poi in realtà è l'evoluzione di quello che stavamo dicendo adesso, forse, perché appunto essere... cioè apprezzare se stessi, no? E creare questa immagine, curarla, però poi essere anche riconosciuti come questo. Ma infatti fino ad ora abbiamo ascoltato messaggi di persone che dicevano appunto "riconosceteci per quello che siamo e non per quello che voi vorreste che noi fossimo", capito? È quello di base, stiamo parlando di questo finora, quindi è bellissimo pure comunque trovare tanti testi che parlano in maniera diversa di questo concetto, capito? Sia in passato che adesso, appunto, pure grazie a citazioni di altri artisti, personaggi che magari non c'entrano niente con questa scena, e quindi appunto quanto poi è una contaminazione spirituale poi alla fine, no? E non solo musica o, capito? Fare musica, insomma. Beh sì, sono d'accordissimo che in sostanza poi sì, è anche una cosa. Ah sì sì. Dicevo, il concetto di questa canzone appunto che dice, cioè attacca poi il sistema politico, no? Attacca il sistema politico che te lo paragona ad un agguato nella notte, no? Che poi però, come dicevamo, in realtà poi ha effettivamente subito. Però parla anche di questo agguato magari metaforico, cioè un agguato di impedirti appunto di essere magari quello che sei e di svilupparti, no? Essere, come dice qui, tuo fratello deve essere il tuo nemico, no? Perché portarti a questo quando magari si potrebbe fare il contrario, cioè, praticamente. E anche perché appunto, cioè, non, che fratellanza sarebbe senza amore ma con odio, capito? Cioè quello proprio il discorso, infatti. Diciamo, questo richiama molto il gioco strategico politico di guerra, capito? Che togliete, quindi in generale non è, cioè parla a tutte le nazioni, poi alla fine, capito? Parla proprio al mondo. Infatti pure questo è importante, capito? Cioè, la scelta delle parole pure come viene interpretata. Beh sì, certo. E questo adesso l'ho fatta partire sotto, e come dicevo, il pezzo che io preferisco è proprio quando arriva, ve lo dico, eccolo qua. Ovvero dice, cioè loro pensano che quello che sappiamo è solo quello che ci hanno insegnato, cioè quindi proprio a puntare a questa cosa di tu sei quello che io ho plasmato, no? Perché dovresti essere qualcosa di più? E questo lui lo paragona ad un agguato nella notte. E io devo dire di essere abbastanza d'accordo, perché non permettere a una persona di, cioè, essere quello che vuole. Va bene, questo sappiamo che non saremo noi a risolvere questo problema, ci mancherebbe. Poi non è solo il discorso di essere ciò che vuole, ma di accrescere ciò che vuole essere, quindi anche questo, insomma, può portare, cioè, annullare. E comunque sì, appunto, diciamo che questo è un agguato nella notte che lui poi in realtà ha subito veramente, per questo si è ispirato. E insomma, agguato è quello che ha subito pochi giorni prima poi di questo concerto che doveva fare per la pace, un concerto gratis nel 76 in Giamaica, a dicembre del 76, i primi di dicembre. E appunto gli hanno fatto questo attentato a casa sua e gli hanno sparato, insomma, parecchi colpi, però quello più trivellato è stato il suo manager di allora, Don Taylor, e lui ha preso solo un colpo di striscio in petto che poi gli si è conficcato nel braccio. E però sì, insomma, hanno rischiato, e comunque lui però due giorni dopo è andato e si è esibito e ha fatto questo concerto per la pace con il rischio che magari lo uccidessero direttamente sul palco, e invece lui è andato lì dicendo anche: perché se le persone che fanno del male non si prendono un giorno di ferie, dovrei farlo io che faccio del bene. Quindi insomma, questo è pure perché lui è rimasto abbastanza scottato anche dal fatto, insomma, che tutte le sere era protetto, c'era sempre qualcuno, casa sua comunque era tipo un quartiere generale in Giamaica all'epoca, capito? Detto che dice, i rasta si radunavano là, c'era sempre gente, era sempre vissuto, capito? Anche da da gente esterna a chi viveva lì, capito? A tutte le ore. E quindi in quella sera casualmente si sono ritrovati, capito, che non c'era nessuno, e hanno fatto questo attentato, quindi è stato proprio un attentato, capito? È stata una cosa organizzata. Lui pure disse che comunque sapeva chi era stato, ma insomma, dice, sarà già a punirli, io non mi interessa, capito? Cioè questo non è il mio lavoro. Sì, che dire dopo questo? Diciamo soltanto che a parte il grande rispetto per quest'uomo, noi vi portiamo invece un testo, una canzone di uno dei nostri, diciamo, nostrani, dei nostri tempi, che ha provato magari a riprendere questo concetto, no? Questo concetto della rivendicazione di se stessi, dell'affermazione, e appunto, e di sentirsi non giudicati per questo. Andiamocelo a sentire. Il nostro caro amico Puppa Albo, questa canzone già si chiama Tu non sei meglio di me. Perché perché comunque noi sappiamo che, cioè, lui ha comunque ha messo in pratica quello che più o meno diceva, cioè lui si è effettivamente trasferito in Giamaica per provare a fare quella vita. E niente, questa canzone racconta la sua storia e dice: perché devi giudicarmi per questa storia? Non sei meglio di me. Freddy Stork ce la racconta meglio. Eh sì, pure perché c'è da calcolare che comunque lui si è ritrovato in quegli anni, appunto, stiamo parlando forse che 2004-2005, non mi ricordo, in cui appunto, essendo italiano, non era ben visto in Giamaica, perché appunto ci sono miliardi di giamaicani che vogliono cantare e fare successo, addirittura d'Italia, bianco, chi sei, capito? Sei un hustler, cioè sei uno che vuole scimmiottare di rasta, ma non sei rasta, capito? Questo, quindi comunque trovi difficoltà a inserirti. E diciamo, qua già era qualche anno che lui comunque faceva già produzioni sue cose e aveva avuto già dei discreti successi, capito, robe tipo Jaja Crown, queste cose qua. E questo è, insomma, è un bel testo, perché appunto racconta un po' tutta la sua storia, il fatto che lui è partito da questa isoletta, che diciamo lui è nato in Sicilia, però poi è cresciuto a Bergamo e poi si è trasferito in Giamaica dopo, no? A Bergamo, da quelle parti. Poi c'era un gruppo qua in Italia, i Reggae National Tickets, hanno fatto altre varie canzoni in italiano anche, e niente, questo poi al poco si è trasferito là, e quegli anni lì, appunto, questi erano gli anni della rivalsa, in cui appunto lui diceva: nessuno è meglio di me. Sono arrivato al punto che comunque riuscì a stampare i dischi in Giamaica, capito? Quindi dai. No, quindi dici, perché, cioè, giudicare questa cosa, no? Cioè, io ho portato il mio sogno, l'ho inseguito, non mi sento di dover essere migliore di qualcuno. Volevo questo e l'ho fatto. E questo, ragazzi, era l'ultimo pezzo di questa nostra carrellata di canzoni concettuali sull'affermazione di se stessi. E niente, però non vi lasceremo di certo così senza almeno un sottofondo musicale di saluto, che però a sorpresa non sarà niente di inerente come tutti voi vi aspettavate, ma sarà proprio invece una traccia del nostro caro amico Freddy Stork. Ah sì, dai, che vorresti, che cosa ci vorresti fare? Cioè, scegliela tu, io l'hai già scelta, vai, allora facci sentire questo pezzo. Di qualcosa tu di questo pezzo. Allora, dirò una cosa importante su questo pezzo. Quando l'ho sentito, mi è piaciuto. È importantissimo questo. Quindi io direi che non c'è veramente nessun'altra presentazione migliore. Vi lasciamo, ragazzi, con un brano di Freddy Stork, Get Behind Me Satan, resta dietro a me Satana, non ti vogliamo, sempre dietro, non davanti. Infatti poi c'è la versione che si chiama Judge Me Want It Front Of A Me, cioè solo già voglio davanti a me, no? Niente Satana dietro e già davanti. E si va, ragazzi. Un saluto dal Tampillo e dal caro Freddy Stork, Yaman. Ciao, ragazzi, vi lasciamo con questa song.